L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente e anche per le stelle, o per meglio dire rispetto per gli osservatori del cielo. Di questo infatti parliamo oggi qui all'altro pianeta, dell'accordo siglato da Era Luce e dall'Unione Astrofili Italiani per riveder le stelle. Un impegno è realizzare un'illuminazione stradale meno inquinante per favorire gli studi della volta celeste. I nostri ospiti sono Walter Sirri, amministratore delegato di Era Luce, e cioè il secondo gestore italiano di illuminazione pubblica. Benvenuto Sirri. Buongiorno. E Mario Di Sora, presidente dell'Unione Astrofili Italiani. Benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. C'è un risvolto poetico in tutto questo, ma c'è anche un risvolto scientifico ed economico, e ne parliamo tra poco. Innanzitutto però, Di Sora, le voglio chiedere: quali problemi causa alla scienza astronomica l'illuminazione dissennata delle strade, non precisa, eccessiva magari? Ma guardi, c'è un duplice aspetto. Il primo è quello che praticamente l'innaturale illuminamento del cielo da parte dell'illuminazione artificiale comporta la perdita di segnale luminoso da parte degli oggetti celesti, quindi tutti gli oggetti più deboli noi tendiamo a perderli e quindi non possiamo più studiarli, e questo è un aspetto, diciamo, prettamente scientifico. Voglio fare un esempio per i nostri ascoltatori. Prego. È come se ci troviamo in una sala del cinema e all'improvviso accendono la luce, tutti i particolari più deboli della pellicola vengono persi. Secondo aspetto è di tipo culturale, perché noi stiamo perdendo progressivamente col tempo il rapporto col cielo che per migliaia di anni ha guidato l'uomo, anche delle caverne, e gli uomini delle generazioni successive a rapportarsi con il cielo stesso, che indicava anche cosa fare e come fare. Di non secondaria importanza. Walter Sirri, le voglio chiedere: quando parliamo di illuminazione pubblica, parliamo fondamentalmente di illuminazione stradale o anche, ad esempio, quella dei monumenti, altro? Quando si parla di illuminazione pubblica è tutta l'illuminazione curata dalla pubblica amministrazione su aree esterne. Quindi comprende anche l'illuminazione monumentale, l'illuminazione dei parchi, dei passaggi pedonali, delle piccole aiuole, aree verdi, quindi è un concetto generale che riguarda tutti gli spazi esterni ad uso umano. Quindi ce n'è di lavoro, insomma, e anche di lavoro per poter raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi con questo accordo con l'Unione Astrofili, no? Senz'altro, c'è molto lavoro, perché è un settore che è partito un po' così spontaneamente, che adesso ha regole e capacità tecniche per affrontare il problema senza disturbare gli attori di tutto il sistema sociale e civile. Cosa prevede l'accordo? L'accordo parte dal presupposto che esiste tecnologia, esistono sistemi per illuminare bene, risparmiando l'energia e non inquinando la volta celeste. Tutto questo parte da una collaborazione tra i vari attori e i vari utilizzatori di questi servizi. Prima posizione sono le pubbliche amministrazioni, che debbono sollecitare attraverso il loro forza contrattuale e il loro potere di acquisto la scelta di servizi e beni che rispettino l'ambiente. È possibile utilizzare strumenti di scelta dei fornitori attraverso una valutazione tecnica e una valutazione delle prestazioni. Quindi noi ci poniamo l'obiettivo di qualificare ulteriormente il servizio utilizzando tecnologia che si avvale del lavoro e della professionalità locale, riducendo i consumi che comportano investimenti, che comportano importazioni e spese all'estero. Vorrei chiederle, Di Sora, com'è nato questo accordo? Siete stati voi a cercare Era o viceversa? Ma guardi, è stato un incontro, se vogliamo, a metà strada, perché sia Era che noi come Unione Astrofili Italiani stavamo cercando di fare qualcosa che promuovesse la cultura della buona illuminazione, del risparmio energetico e della conservazione dell'ambiente e delle risorse energetiche. e quindi abbiamo avuto dei contatti informali che poi sono scaturiti nell'accordo che è stato sottoscritto e che trova come base non soltanto un aspetto di fatto che è quello di cui ha parlato Sirri per quanto concerne le attuali tecnologie, ma l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo in cui la stragrande maggioranza del territorio nazionale è sotto tutela di numerose leggi regionali che sono state approvate dal 2000 fino ad oggi proprio per la limitazione dell'inquinamento luminoso e per la limitazione dei consumi energetici. Il dato di partenza è stato quello che noi comuni anastrofili italiani abbiamo, diciamo, in questo primo decennio di applicazione delle leggi verificato che la pubblica amministrazione, quindi spessissimi comuni ma anche altri enti pubblici, sono i primi a non rispettare queste leggi, leggi che impongono di utilizzare determinate tecnologie, che impongono di realizzare, di conseguire quei risparmi non inferiori al 30%, in alcuni casi abbiamo calcolato che arrivano anche al 70-80%, quindi è un accordo che va a favore, a sostegno di queste leggi e in definitiva anche del cittadino, perché sono leggi che sono fatte nell'interesse di tutti e io direi in questo periodo di crisi anche del contribuente. Vabbè, certo, perché c'è l'aspetto poi del risparmio che non è da poco, ma i comuni sono inadempienti perché disattenti, perché hanno poco denaro, non fanno l'investimento iniziale, qual è il motivo? No, guardi, queste leggi, perché sono diverse, insomma, queste normative che, ripeto, sono state approvate dal 2000 in poi, per i nuovi impianti sono a costo zero, perché montare un corpo illuminante, realizzare un impianto che è conforme o non è conforme alla legge, da un punto di vista economico non comporta nessuna spesa in più. E che in Italia purtroppo abbiamo da un lato una scarsa cultura per quanto concerne la sensibilità ambientale in senso lato, e quindi anche i comuni hanno, molti comuni, non tutti, ma la maggior parte hanno questo problema. Dall'altro c'è un aspetto che purtroppo nelle pubbliche amministrazioni e spesso anche negli enti privati ancora non ci sono quelle professionalità che consentano di comprendere appieno il contenuto di queste leggi e in definitiva anche le finalità. L'accordo con Era Luce va in questa direzione. Quindi ci sono un po' troppe chiacchiere e distintivo, insomma, poi non troppe chiacchiere e distintivo, e poi diciamo anche la verità che gli impianti vengono gestiti più in modo demagogico che tecnologico, per cioè? Cui interessa, nel senso che interessa più che altro fare luce sulle strade, ma non interessa farla di qualità, per cui un sindaco, un assessore, quando ha illuminato una strada sta tranquillo che la strada è sicura, anche se il livello di illuminazione è 5 o 6 volte superiore a quello previsto dalle norme. Walter Sirri, cosa vuol dire fare illuminazione di qualità? Come dovrebbe essere una buona illuminazione? Una buona illuminazione è quello che utilizza il minor quantità di energie, illuminando là dove serve, quando serve e perché è necessario. Questa è la qualità. Illuminare di notte quando non passa nessuno, ha del lumene o delle intensità eccessive, è solo esclusivamente uno spreco. Quindi la tecnologia ci deve aiutare a individuare quando serve, erogare la misura necessaria, rispettare tutti gli altri attori della società civile, gli astrofili, gli ambientalisti, gli ecologisti, quelli che curano la fauna, perché anche la fauna è influenzata dall'illuminazione notturna, e quindi coordinarci con tutti questi, utilizzare le risorse assolutamente indispensabili per il tempo indispensabile. Questo vuol dire risparmio di petrolio, risparmio di energia, risparmio economico, investimento in tecnologie che comporta lavoro e produzione locale. Voi avete, leggo, oltre 300.000 punti luce da gestire. Questo impegno che vi siete presi, che cosa comporta anche da un punto di vista economico per Era Luce? Comporta investire tutte le volte che è necessaria una manutenzione straordinaria, che nasce dall'iniziativa del comune o nasce dalle esigenze del servizio, processare e progettare l'intervento avendo come riferimento il risparmio energetico, la modulazione del servizio, la riduzione o la eliminazione dell'inquinamento luminoso. Quindi una sostituzione anche di quello che è? Sì, tutto parte da una riprogettazione e un utilizzo di apparecchi più moderni e rispettosi. cioè non è possibile con la gestione modificare l'inquinamento o il consumo, bisogna effettivamente intervenire sulle apparecchiature, sul loro modo di essere costruite e sul loro modo poi di essere utilizzate. Interventi sul patrimonio già esistente sono difficili, sono facili, quindi che si possono risolvere in tempi veloci? Non sono difficili, sono onerosi, ma si ripagano nel tempo, quindi è un investimento un investimento per il risparmio energetico e per sull'inquinamento, e quindi è mettere a disposizione risorse per aumentare la qualità del territorio utilizzato. Ma è un investimento che deve fare solo ERA o che fa ERA con le amministrazioni comunali? Come funziona? Dipende dalla durata dei contratti, è ovvio che il problema della illuminazione del territorio è un problema dell'ente locale. Se la durata del contratto permette di ammortizzare queste spese, ERA molte volte ha un suo vantaggio proprio ad intervenire, altrimenti per contratti brevi o per i nuovi contratti che mette sul mercato l'amministrazione, questa ha l'obbligo o ha le risorse per imporle delle scelte e delle norme tecniche e delle prestazioni per le apparecchiature che chiede di installare. Quindi è un problema anche di cultura nell'ente locale. I bandi che va ad emettere possono prevedere esplicitamente delle prestazioni tecniche minime. Il problema dei bandi è un problema che affiora ovunque dove si tocca, no? Si lavora ancora con metodi e con obiettivi vecchi, diciamo, datati. Sì. Questo lo trovate anche voi nel vostro settore, quindi? Lo troviamo anche noi, l'offerta al massimo ribasso, ovvero anche quelle economicamente più vantaggiose, ma che quando è alla fine decide il prezzo, molte volte limitano le scelte tecnologiche, cioè se a base d'asta non c'è un ammontare complessivo sufficiente per fare gli investimenti e i ritorni conseguenti, molte volte queste scelte sono limitate, diciamo così. Diceva lei, Mario Di Sora, che l'Italia è uno dei primi paesi a essersi dotato di una serie di regolamenti per evitare l'inquinamento luminoso, anche se molto differenziati, comune per comune, provincia per provincia, eccetera, eccetera. Ma viene in mente a me anche che l'Italia è un paese così densamente popolato che non so dove si faccia ricerca oggi. Dove si va? Ma guardi, la ricerca d'avanguardia non si fa più a livello continentale, non solo in Europa, ma non solo in Italia, ma in tutti gli altri paesi europei. Però la ricerca ordinaria, cioè quella che riguarda corpi celesti che non sono lontanissimi, per capirci, può essere benissimo fatta a livello continentale, con gli strumenti astronomici di cui dispongono anche gli astronomi non professionisti oggi. È proprio per questo motivo che bisogna salvaguardare e recuperare, diciamo, l'osservabilità concreta del cielo. Mi fa un esempio di un luogo in cui con interventi appositi come quelli che saranno messi a punto, ci auguriamo, entro breve da ERA, e che magari già in parte sono stati realizzati, comunque un luogo che era punto d'osservazione, non so, mi viene in mente... Voglio fare un esempio concreto, visto che io personalmente sono stato il primo in Italia a interessarsi di questo problema nel lontano 1987. Nella provincia di Frosinone, che è stata la prima in assoluto in Italia ad approvare i primi regolamenti comunali, noi abbiamo recuperato in collaborazione con molti comuni e poi grazie all'avvento della legge regionale, la 23/2000 del Lazio, una visibilità del cielo che è praticamente uguale a quella che c'era verso la fine degli anni 70. C'è un osservatorio di cui sono direttore, che è l'Osservatorio Astronomico di Campocadino, che si interessa tra l'altro in modo specifico dell'inquinamento luminoso, e abbiamo dimostrato che è possibile con l'applicazione di questi provvedimenti recuperare il cielo stellato, ma è possibile fare anche delle ottime politiche di risparmio energetico, tant'è vero che ci sono comuni che riescono alla fine dell'anno a risparmiare il 30 e anche il 40% rispetto ad altri comuni di dimensioni analoghe che non rispettano questi provvedimenti. Quindi si può fare. ERA Luce, che i suoi 300.000 punti luminosi, in che area del paese li gestisce principalmente? Li gestisce nel triangolo compreso tra Riccione, Ferrara e Modena. Quindi una fetta molto importante e molto densamente abitata dell'Emilia Romagna. Di Sora, qui ci sono osservatori che potranno rivedere le stelle? Ci saranno sicuramente, se intanto i comuni decideranno di rispettare la legge che c'è in Emilia Romagna. Poi nel mio bagno c'è il problema però della vasta estensione della pianura padana, che ha dei problemi climatici che non sono quelli delle zone di montagna. Però è chiaro che non inviando più luce verso l'alto, la recuperabilità delle osservazioni è notevole. Sì, anche solo magari una passeggiata serale ci permetterà di vedere di più di quello che vediamo adesso. Insomma. Sicuramente sì. L'altro pianeta. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte dell'Altro Pianeta, seconda parte in cui oggi ospitiamo con piacere l'intervista di Raffaella Calandra alla vicepresidente e assessora allo sviluppo economico della Regione Puglia, Loredana Capone, intervistata alla Fiera del Levante di Bari per fare il punto sulle rinnovabili nella regione, una regione che è sì la capitale del solare italiano, ma come ha detto proprio alla Fiera del Levante il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia, lo è diventata con principi un po' da Far West. E proprio da qui parte l'intervista. La Puglia è stata per all'inizio soprattutto la regione dove il fotovoltaico e l'eolico in particolar modo ha avuto un boom pazzesco, con pro e contro. Lei ha parlato poco fa della droga degli incentivi. È questa secondo lei la ragione che ha portato anche a una, diciamo così, ad un exploit di pale eoliche che spesso hanno portato poi anche ad una serie di inchieste? La Puglia ha avuto un exploit innanzitutto perché ha molto sole e molto vento, più rispetto al resto delle regioni italiane, esclusa la Sicilia. Quindi ha avuto uno splash perché il mercato, gli investitori hanno valutato che era conveniente investire da noi avendo un rendimento degli impianti sicuramente più importante. Ce l'ha avuto anche perché la regione ha dimostrato di credere nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Tuttavia bisognava dare un correttivo. In questo senso purtroppo l'attesa per 7 anni di linee guida nazionali sull'argomento è stato purtroppo un problema serio, serissimo. Oggi la Regione Puglia ha già disciplinato sulla materia, ma il governo non solo non ha emanato le linee guida, ma ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale le norme della Regione. Ecco perché si è avuto, come dire, un crescendo di impianti che avrebbero meritato delle regole più chiare di livello nazionale. Gli incentivi hanno dato il resto, nel senso che noi avevamo chiesto che gli incentivi sul suolo agricolo fossero ridotti, perché in questo modo avremmo incentivato i tetti fotovoltaici sugli edifici civili e sugli edifici industriali. Invece si è mantenuto per anni, sino ad oggi, sino al decreto Romani, si è mantenuto per anni un forte incentivo a mettere gli impianti sul suolo agricolo. Ecco, e io parlo di droga degli incentivi. Cioè questo vuol dire che ha favorito l'arrivo soprattutto di grandi realtà industriali piuttosto che di micro aziende del posto? Certo, perché i grandi impianti sul suolo agricolo richiedono anche grandi investimenti ed è evidente che multinazionali di tutto il mondo sono state attratte dalla possibilità di ricevere quei mega incentivi. Oggi noi ci auguriamo che si proceda in tempo, che non si arrivi tardi, è per questo che suggeriamo un tavolo tecnico anche con il Ministero per ragionare su norme che innanzitutto disciplinino presto di nuovo gli impianti fotovoltaici. Nel frattempo però in Puglia è stato anche un po' un piccolo caso il fatto il proliferare di pannelli e di paleoliche tra ulivi secolari oppure in zone anche turistiche o comunque nelle zone pressi anche di borghi vincolati. Rispetto a questo che fare? No, le dicevo, la regione aveva messo addirittura un vincolo assoluto per le aree agricole di pregio e per le aree vincolate, che poi il governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale, ma sinceramente tra gli ulivi secolari impianti fotovoltaici non ce ne sono, c'è una norma di tutela piuttosto dura. Se qualcosa di questo genere si è determinato, allora vuol dire che i controlli comunali non hanno funzionato. Infatti sono diverse inchieste. E questo è un fatto molto grave, ma purtroppo accade in qualunque settore. E sono dei fatti di rilevanza penale. Non è possibile realizzare impianti fotovoltaici su aree che siano vincolate. Questo oggettivamente. Noi eravamo andati oltre, noi avevamo previsto che non si potessero realizzare neppure nelle aree che i comuni volessero definire di pregio. Ripeto, la Corte Costituzionale ha dichiarato questo come una norma di competenza statale, quindi ce l'ha cassata. Da gennaio vale il regolamento che vieta di realizzare impianti, sia eolici che fotovoltaici, in tutte le aree non idonee per quel tipo di impianti. Lei ha lanciato un appello anche agli amministratori comunali per cercare di coniugare, diciamo, lo slancio verso le energie rinnovabili con il rispetto della bellezza e quindi anche dei vincoli. Ecco, in che modo? Beh, piuttosto facile la previsione, basta fare i cosiddetti piani di decoro urbano, piani che incentivano la bellezza, e si tratta di strumenti attuativi, di piani particolareggiati che dicono come bisogna fare gli impianti perché siano rispettati anche i requisiti del paesaggio, cioè per esempio impianti strutturali. Non si può fare un gazebo alto per metterci il tetto fotovoltaico su un immobile storico, artistico. Come pure è avvenuto e come rischia di avvenire se non c'è un controllo attento dei comuni, delle sovrintendenze. Stiamo anche facendo un premio per i designer per coinvolgere le buone prassi e per divulgarle, oggi ci sono paleoliche che sono bellissime, che sembrano sculture, diffonderle può essere utile, o ci sono tetti fotovoltaici o pareti fotovoltaiche che nessuno si accorge che esistono, proprio perché sono talmente integrate che non si vedono. Tutto questo è assolutamente da incentivare. Grazie a Raffaella Calandra per questa intervista alla vicepresidente e assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Loredana Capone. Ora è il momento invece della rubrica Articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Il microfono a Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati, benvenuti. Abbiamo in collegamento con noi Andrea Poggio, che è il vice direttore generale di Legambiente. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Dobbiamo dare notizia di una bellissima iniziativa che è già in essere, che Legambiente sta mettendo in atto in questi giorni nel nostro bel paese. L'iniziativa si chiama Puliamo il Mondo. Voi di Legambiente vi siete letteralmente rimboccati le maniche e sguinzagliati su tutto il territorio nazionale in collaborazione con altri realtà che adesso lei ci dirà, avete deciso per una settimana di fare una grande pulizia, diciamo di fine estate, del nostro paese. Ecco, Poggio, dove ci guida, dove ci porta, dove ci porterebbe se vogliamo dare una mano a lei a pulire la nostra Italia? Ma dunque, io mi sono alzato presto questa mattina e sono corso nel bel mezzo del Parco Lambro qui a Milano. Perché? Perché c'erano un centinaio di volontari, tra l'altro appartenevano anche aziende che hanno deciso di dedicare una giornata di permesso al volontariato, ma poi dopo c'erano operatori ecologici delle guardie ecologiche volontarie, ovviamente volontari di Legambiente, e abbiamo pulito questo grande parco alla periferia di Milano. Poi di corsa fare la conferenza stampa a Palazzo Marino con un po' di vestiti sudati addosso, però ci capita anche questo quando uno fa Puliamo il Mondo, e adesso devo correre in un'altra area dove si interviene. In totale faremo da qui a sabato 24 ben 4.500 appuntamenti di Puliamo il Mondo in tutta Italia. Se va bene, cioè se il tempo tiene come l'anno scorso, saremo oltre 500.000 di volontari da tutte le parti, di tutti i tipi, perché poi dopo ci sono i montanari e gli alpini che vanno a ripulire i sentieri su montagna o piuttosto che i boschi, e ci sono le spiagge del mare, no? Addirittura. Saremo sul Canal Grande con i sub. Ho visto, qui ci sono dei temerari che proprio domenica si butteranno nel Canal Grande per pulire il fondale. Ecco, questa iniziativa è particolare, come è stata organizzata? Beh, è partito da un gruppo di volontari subacquei, ovviamente, perché lì al Canal Grande cosa volete fare? Mica si può scopare il mare, no? Certo. Quindi bisogna andare a prendere. E sembra incredibile, ma alla fine un po' di rifiuti, anche se a Venezia lo sanno che devono evitarlo, ma alla fine finiscono anche sott'acqua, è così. Ma pensate il lavoro che fanno gli speleologi, l'associazione dei volontari di speleologia, vanno a liberare dei rifiuti tutte le buche della terra, certo. Perché quando uno pensa a un buco, nessuno guarda dentro, ci si butta la roba, ecco. Invece è incredibile, però diciamo la gran parte degli interventi sono le scuole, i giardini delle scuole, piuttosto che gli angoli delle vie, piuttosto che i parchi frequentati, i giardini frequentati dai centri delle città, le sponde dei fiumi, quello certo. È un classico, tutte le città italiane che hanno un fiume, lì si va sicuramente a ripulire. Guardate, a ogni punto di cui hanno il mondo sono alla fine decine e decine di sacchi di monnezza, certo. In alcuni casi quando si va un po' fuori nelle zone periferiche dove ci sono le discariche, in questo caso ci attrezziamo anche, chiediamo ai comuni e alla società di arrivare lì con dei container che le riempiamo di roba. Certo. C'è una particolarità quest'anno, che è il 19° anno che facciamo Puliamo il Mondo, che l'abbiamo un po' prolungato. Perché l'abbiamo prolungato? Perché la domenica 25, che doveva essere la domenica finale, in realtà saremo tutti alla marcia Perugia Assisi, e quindi abbiamo anticipato a questa domenica l'azione dei volontari, e l'azione delle scuole si sta sviluppando un po' oggi, un po' domani, che soprattutto venerdì, sabato, domenica prossima. Insomma, perché abbiamo decine di migliaia di studenti delle scuole che verranno a fare Puliamo il Mondo con noi. Insomma, è una bellissima iniziativa, un'iniziativa tra l'altro altamente educativa, perché non ci si rende conto tutte volte che si abbandona anche una piccola carta, che cosa si può combinare ai danni dell'ambiente, del paesaggio, addirittura dei monumenti. So che voi, oltre ai dintorni di Milano, oltre ai canali dei fiumi, agli argini dei fiumi, eccetera, eccetera, andate anche a ripulire luoghi dove non si dovrebbe trovare cartacce. Vedo il parco di Villa Ada nel cuore di Roma, dove addirittura sono segnalate delle microdiscariche disseminate all'interno della villa, e poi per non dire della Valle dei Templi, che continua ad avere questa vocazione turistica da un lato e appunto come luogo di scarico di rifiuti dall'altro. Io ringrazio moltissimo il direttore Andrea Poggio, grazie per questa iniziativa, grazie per il vostro impegno. Grazie a voi, ho un riferimento a un sito internet, sì. www.puliamoilmondo.it, lì trovate segnalate tutti i comuni d'Italia in cui si fa e tutti gli appuntamenti. Perfetto. Venite numerose. www.puliamoilmondo.it, chi vuole rimboccarsi le mani, che si colleghi e si metta a disposizione. Grazie. Ed è proprio tutto per questa puntata dell'Altro Pianeta. Grazie per averci seguiti. Per scriverci, vi ricordo, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento di ascolto su Radio 24.